Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. La satira è la cosa che fa scattare immediatamente la violenza, la voglia di eliminare costoro che fanno sì che la gente sia intelligente, perché la satira per se stessa non è niente se non che porta a ragionare, a riflettere e usare il cervello. Questa è l'osservazione, il commento, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, di Dario Fo, premio Nobel, che di satira non ne ha fatta mancare mai nella sua vita, nel suo mestiere. Quindi questo a proposito della notizia che continua a essere la principale anche di questa giornata e di questa puntata, naturalmente, di Effetto Notte, cioè la strage di ieri in Francia al settimanale satirico Charlie Hebdo. Di questo ovviamente, vi dicevo, parleremo molto, ma ci occuperemo anche dell'autopsia che oggi c'è stata sul corpo di Pino Daniele. Molti si chiederanno, ma insomma un comune mortale avrebbe subito queste cose, l'inchiesta eccetera. Evidentemente in questo caso ci sono varie questioni, anche retroscena, poi la guerra tra le mogli, le polemiche sui soccorsi. Dopo affronteremo anche questo. C'è anche oggi è stata una proiezione molto particolare in Vaticano di un film di una regista che assume un po' un côté pop, possiamo dire così, forse in aspettato, ma questo Papa sappiamo che è abbastanza, almeno così ci appare, controcorrente per molti versi. Insomma, tantissime notizie anche stasera. Adesso ve le riassumo come sempre nella prima parte di Effetto Notte con alcuni servizi e poi dopo approfondiamo con gli ospiti in diretta. Vi ricordo che ci sono sempre le vostre possibilità di interagire, canali di interazione qui con Effetto Notte, c'è il numero per i messaggi che è 349-238-6666 e poi c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, anche se questa sera non vi ho lanciato un argomento in particolare, però appunto c'è la questione di Pino Daniele, ma soprattutto se volete anche il tema del terrorismo, della paura di questi attacchi imprevisti. Fra l'altro c'è stata una strage terribile anche in Nigeria a opera dell'organizzazione integralista Boko Haram, anche di questo ci occuperemo. Che sensazioni sono le vostre? C'era per esempio il ministro dell'interno Alfano che poco fa ha detto un governo che fosse razzista, che avesse atteggiamenti razzisti, peggiorerebbe la situazione, acuirebbe questa tensione, questo scontro di civiltà, di culture, come si dice da tempo. Le vostre opinioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666, andiamo a vedere che giornata complessivamente è stata. La strage a Charlie Hebdo, la Francia mobilita 88.000 uomini per dare la caccia ai due terroristi, era falsa la pista dei killer barricati in casa. Parigi, manifestazione a luci spente alla Tour Eiffel, il presidente Hollande incontra Sarkozy. Nigeria, tornano in azione gli estremisti di Boko Haram, si temono 2.000 vittime. La morte di Pino Daniele, l'autopsia non chiarisce tutti i dubbi, servono altri esami. Furto nel frattempo nella villa del cantante in Maremma. Novità per i musei, il ministro Franceschini apre il bando internazionale per la direzione dei 20 siti più importanti. Il bimbo con due mamme, che ha suscitato polemiche, il Comune di Torino ha deciso di trascrivere l'atto di nascita. Cinema, il film di Angelina Jolie, Unbroken, proiettato in Vaticano. Calciomercato, l'Inter prende anche Shaqiri, accordo col Bayern, ma è rottura fra Mancini e Osvaldo. Partiamo quindi, come vi dicevo, sempre in primo piano dall'attentato di ieri nel settimanale satirico francese Charlie Hebdo. Il giorno dopo la strage, vi ricordo, 12 sono stati morti, Parigi si è stretta intorno alle vittime. Nel tardo pomeriggio c'è stata una manifestazione nella capitale francese contro il terrorismo lanciata dalla sindaca Anne Hidalgo, manifestazioni di solidarietà naturalmente anche in altre città europee, anche in Italia. Intanto proseguono le ricerche da parte della polizia degli attentatori, ma si sarebbe rivelata nella tarda giornata una falsa pista, quella secondo la quale i due presunti terroristi dell'attacco al giornale, i fratelli Saïd e Sherif Kouachi, sarebbero barricati in una casa vicino a Crépy-en-Valois. E quanto fanno intendere dalla gendarmeria, dalla polizia francese, la caccia all'uomo quindi si concentra nelle campagne della Piccardia, una 60 di chilometri da Parigi. Il Ministero dell'Interno francese ha annunciato che sono stati mobilitati, vi dicevo, nei titoli 88.000 uomini per dare la caccia ai due terroristi autori della strage, secondo quanto riportato da France 24. Nel frattempo c'è però anche una Francia che cerca di ripartire dall'unità invocata dal presidente Hollande e dal suo predecessore Sarkozy, che oggi si sono incontrati all'Eliseo. Misure di sicurezza al massimo livello, come potete immaginare, voglia anche di tornare alla normalità. Questa è la Parigi di queste ore. Queste sono le campane di Notre Dame che oggi hanno suonato a morto e hanno accompagnato il silenzio della nazione in lutto. La Francia si è stretta attorno alla redazione di Charlie Hebdo e ha commemorato i 12 morti dell'attacco terroristico di ieri. Parigi, sotto una pioggia fitta, ha osservato un minuto di silenzio. Molte le persone per strada, davanti alle istituzioni, all'Assemblea Nazionale, alla Cattedrale e alla Moschea. Davanti alla redazione della rivista satirica, tanta commozione, tanti fiori, soprattutto rose rosse, e tante matite, simbolo di libertà di espressione, strette in pugno o adagiate accanto ai fiori. In virtù di quella libertà di espressione, Charlie Hebdo non si ferma e annuncia che sarà in edicola mercoledì prossimo con 1 milione di copie. Les Echos, il giornale economico finanziario francese, fa sapere che 250.000 euro saranno stanziati dal fondo dell'editoria Stampa e Pluralismo e altri 250.000 da Google per sostenere Charlie Hebdo, che da tempo naviga in cattive acque. Oltre che nella regione parigina, anche nella Picardia, la regione dove si cercano i due responsabili dell'attacco, è stato esteso il pericolo di attentato. Migliaia i militari che presidiano i luoghi pubblici, le redazioni degli organi di informazione, le stazioni, i grandi magazzini e i siti turistici. La popolazione scende però in piazza. Sono continuate oggi infatti le manifestazioni spontanee in attesa della marcia repubblicana prevista domenica nella capitale. Chiara Zappalà, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. Abbiamo parlato prima del ministro Alfano, ha detto varie cose oggi, comunque è chiaro che ci allerta anche in Italia. Non ci sono soltanto i controlli rafforzati attorno agli obiettivi sensibili e negli ambienti vicini all'estremismo islamico. Dopo i fatti di Parigi, il Viminale è al lavoro anche su nuove misure antiterrorismo. Da noi al momento non ci sono allarmi specifici, ma non si può escludere l'ipotesi di attentati terroristici, ripete il ministro Alfano, che domani riferirà in Parlamento. Il titolare dell'Interno si appresta a presentare una serie di interventi che riguardano in particolare i foreign fighters, i miliziani jihadisti rientrati dopo aver combattuto in Siria o in Iraq, che potrebbero organizzare attacchi anche nel nostro paese. Sono 53 quelli censiti oggi in Italia, ha fatto sapere Alfano. L'idea è quella di estendere anche a loro le misure di prevenzione più stringenti previste attualmente dalle leggi contro la mafia. Alfano spiega poi che si punta a colpire anche chi vuole andare a combattere nei teatri di guerra e non soltanto i reclutatori, come avviene oggi. Tra le ipotesi allo studio ci sono quelle di allontanarli dall'Italia o privarli del passaporto. In cantiere ci sono poi anche interventi per contrastare il reclutamento e la diffusione di messaggi radicali attraverso il web. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Da una parte Matteo Salvini, dall'altra Beppe Grillo. Il dibattito politico sull'attentato di Parigi si accende. Per la Lega Nord siamo in guerra, è in atto un tentativo di occupazione militare e culturale da parte di una comunità prepotente e ben organizzata. Salvini manda anche un messaggio a Papa Bergoglio: sbaglia a dialogare con l'Islam, non fa un buon servizio, si preoccupi dei cattolici sterminati per il mondo. Per Forza Italia bisogna dire basta al multiculturalismo buonista e Triton deve cambiare, perché stiamo accogliendo centinaia di migliaia di immigrati senza alcun censimento. Complottista invece la tesi del Movimento 5 Stelle. Il blog di Beppe Grillo parla di conti che non tornano, ci sono molte cose da spiegare, la tesi jihadista è la più probabile, ma ci potrebbero essere altre manine. Una tesi adombrata da Aldo Giannulli, consulente di diverse procure, che indica come punto sospetto la carta d'identità maldestramente dimenticata sull'auto dai killer. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E nel nostro paese ci sono anche già diverse inchieste aperte sull'ISIS. L'orecchio elettronico è stato già acceso per precauzione e ora l'attenzione è ancora maggiore. L'Expo può diventare anche una possibile ribalta per i terroristi? L'ipotesi purtroppo esiste, per questo da mesi già la Procura di Milano ha avviato le cosiddette intercettazioni preventive, strumento previsto dalla legge per verificare ipotesi di terrorismo individuale. E se fino ad ora dunque Expo ha impegnato gli inquirenti soprattutto soprattutto sul fronte delle ruberie dopo la strage di Parigi, è quest'altro il fronte che potrebbe diventare prioritario. Nei prossimi mesi, invece, si chiuderà la principale inchiesta sull'ISIS in Italia, su reclutatori e jihadisti del Nord-Est. Almeno 8 gli indagati, ma i loro progetti terroristici non erano rivolti al nostro paese, rassicura il procuratore aggiunto di Venezia, Ippolito. L'ipotesi sulla quale si lavora è che si potessero reclutare qui delle persone per andare a combattere in Siria. Dal Nord-Est alla Siria, passando per i Balcani, diventati, secondo gli esperti, punti di smistamento per i jihadisti d'Occidente. Se questo è il fronte considerato principale per l'Italia, un'inchiesta con non poche polemiche e altrettante strumentalizzazioni è stata aperta nelle scorse settimane anche a Palermo sulla possibile presenza di jihadisti ISIS tra i 197.000 migranti arrivati in Sicilia nel 2014. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo all'estero, in Nigeria. I miliziani integralisti di Boko Haram hanno lanciato un secondo attacco contro la città di Bakar, nel nord-est della Nigeria, già devastata domenica. I cadaveri giacciono sulle strade, si temono 2.000 persone uccise in questo raid, così scrive la BBC citando un ufficiale militare. La città è stata completamente devastata, le case date alle fiamme. Di questo parleremo più tardi. Vi ricordate, Boko Haram è la stessa organizzazione integralista che ha rapito oltre 200 studentesse, di cui pare non si sappia più niente al momento. E in Libia due giornalisti libici, Soufiane Chourabi e Nadir Khatri, sono stati giustiziati, così nei termini dei terroristi, da un gruppo affiliato allo Stato Islamico, autoproclamatosi Stato Islamico. Lo riferisce il SITE, cioè il sito di monitoraggio dell'estremismo islamico sul web. I due erano stati rapiti nel settembre scorso. E ora in Italia, con la cronaca, a Roma c'è stata una nuova operazione anticorruzione. In manette sono finiti funzionari pubblici e imprenditori. Chiedevano mazzette in cambio del loro via libera alle pratiche edilizie e in qualche caso addirittura forzavano gli imprenditori a commettere gli abusi, magari allargando l'opera pur di creare la violazione che giustificasse la mazzetta. Un enorme giro di tangenti, quello scoperto dal comando speciale della Guardia di Finanza, 28 ordinanze di misure cautelari, di cui 22 arresti nei confronti di 10 funzionari pubblici del 14° municipio di Roma, 13 imprenditori, 5 liberi professionisti. Un'indagine partita qualche mese fa attraverso pedinamenti, rilevamenti contabili, intercettazioni, in alcune conversazioni emerge una vera e propria spartizione dei cantieri da parte dei singoli funzionari corrotti, che avevano un proprio tariffario dai 3.000 ai 5.000 euro a cantiere. Una realtà illecita molto diffusa che potrebbe estendersi anche ad altri municipi, ha detto il procuratore aggiunto Francesco Caporale. L'inchiesta infatti non è ancora conclusa, nessun collegamento però con l'indagine di Mafia Capitale. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi una vicenda di traffico di rifiuti speciali con avvisi di garanzia, arresti tra Chieti e Pescara in Abruzzo. È stato indagato per corruzione anche il sindaco di Chieti. Traffico illecito di rifiuti speciali, discarica abusiva e corruzione. Questi reati ipotizzati nell'inchiesta coordinata dalla DDA dell'Aquila, che ha portato all'emissione di 18 avvisi di garanzia. 5 misure cautelari, tra cui 4 arresti domiciliari a sequestri per l'equivalente di 3 milioni di euro e 400.000 metri cubi di rifiuti. In un fascicolo stralcio dell'inchiesta risulta indagato per corruzione il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, insieme al segretario generale dell'autorità dei bacini di rilievo dell'Abruzzo, Michele Colistro, e all'imprenditore Enzo Perilli. Quest'ultimo, si legge nel capo di imputazione, avrebbe promesso aiuto per i debiti del sindaco e un sostegno non meglio quantificato per la campagna elettorale del 2015. La vicenda fa riferimento al progetto di sviluppo del grande centro commerciale di Chieti Scalo, il cosiddetto Megalo 3. Secondo una prima ricostruzione, nell'area golenale del progetto sarebbero stati sversati oltre 93.000 metri cubi e modificati i livelli dell'area di esondazione del fiume Pescara. Sono tranquillo, ha dichiarato Di Primio, è una vicenda che risale al 2007 e si chiarirà. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dall'Abruzzo in Lombardia, Sesto San Giovanni, vicino Milano, 6 bambini fra i 3 e i 4 anni di età sono rimasti leggermente feriti oggi per il crollo di una porzione di intonaco e parte di una soletta in un'aula in una scuola materna. La scuola è stata evacuata, fortunatamente tutti i bambini sono stati dimessi dall'ospedale in cui erano stati portati per accertamenti. E poi c'è la vicenda del bimbo delle due mamme, è arrivato un aggiornamento poco fa, il comune di Torino trascriverà, come ordinato dalla Corte d'Appello, l'atto di nascita del bambino con due mamme, nato in Spagna grazie alla fecondazione eterologa. E questa è la conclusione a cui l'amministrazione comunale è giunta sulla base degli approfondimenti normativi e giuridici effettuati. Quindi è una sentenza che probabilmente creerà un precedente importante. Passiamo ai temi della cultura. È stato pubblicato il bando internazionale per selezionare i direttori di 20 musei italiani. Domani l'annuncio apparirà anche sull'Economist. Il ministro Franceschini ha colto l'occasione per fare anche un bilancio del 2014. Oltre 4.000 i musei italiani sparsi per tutta la penisola. Sbagliato fare confronti con altri paesi perché l'Italia non ha un grande e unico museo nazionale. Il sistema italiano è il sistema nel suo complesso, non si può stralciare un museo, non abbiamo né le possibilità né l'ambizione di immaginare un grande museo nazionale italiano. Il grande museo nazionale italiano sono i 4.000 musei messi insieme. Il ministro Franceschini è chiaro e fa di necessità virtù, aggiungendo che questa è la carta da giocare, portare i visitatori non solo a Venezia, Firenze e Roma, ma anche a Napoli, Reggio Calabria, Ferrara, Torino, ovunque ci sia una collezione da vedere. Oltre 40 milioni i visitatori nel 2014, cresciuti anche gli introiti. Grande successo della prima domenica del mese a ingresso gratuito, che ha compensato l'abolizione delle riduzioni sui biglietti. La stessa gestione dei musei cambia, non rispondono più alle soprintendenze, ma i poli museali regionali. Per 20 musei, poi, dalla Galleria Borghese al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, arriverà il direttore, selezionato attraverso un bando internazionale sulla base del curriculum e non dell'anzianità. Avrà autonomia contabile e amministrativa, una gestione più manageriale per intenderci, rispettando i vincoli della tutela. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi Cinema e Vaticano, dove oggi, vi dicevo, è stato proiettato l'anteprima del film realizzato da Angelina Jolie come regista e che è stato visto dal Papa. Ne parleremo dopo. E poi, per quanto riguarda la morte di Pino Daniele, l'autopsia oggi si sono avuti i primi risultati, non ci sono state grandi sorprese, è morto di attacco cardiaco, anche se dicono i periti non ci sono delle risposte definitive, quindi andranno avanti con altri esami. Anche di questo ci occuperemo poi. Per chiudere il calciomercato, secondo colpo per l'Inter: dopo Podolski arriva l'attaccante del Bayern Shaqiri in prestito con obbligo di riscatto. Intanto Svaldo sembra in partenza e l'Atalanta presenta Pinilla, Gonzales e Cagliari. Ci sono poi, tanto per cambiare, nuovi guai per Balotelli per una cartella di Equitalia da 10.000 euro per multe non pagate. E adesso quindi torniamo a parlare dell'attentato a Parigi, il giorno dopo l'attacco al settimanale satirico Charlie Hebdo da parte di tre uomini. Adesso se ne cercano due in particolare, due uomini incappucciati armati di Kalashnikov, che ha provocato, vi ricordo, 12 morti, tra i quali il direttore del settimanale Charbonnier, che era anche un celebre disegnatore satirico. È stato l'attacco più grave degli ultimi 40 anni. La Francia si è fermata per un minuto oggi di silenzio. Il paese prova però anche a reagire, come avete sentito anche nella prima parte di Effetto Notte, mentre il settimanale, questa è una prova, sarà regolarmente in edicola la prossima settimana con un numero simbolico. Intanto Marine Le Pen, che è la leader del Front National, dell'estrema destra francese, rilancia sulla pena di morte. Anche su questo potreste dire la vostra, se volete, al 349-238-6666 o sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Nel frattempo c'è stato un incontro all'Eliseo tra l'attuale presidente Hollande e l'ex presidente Sarkozy. Rabbia e dolore, come vi dicevo, anche fra i musulmani francesi, che invitano imam a condannare la violenza e propongono di partecipare in massa alla manifestazione nazionale di domenica. Manifestazioni a Parigi e anche in Italia. Però a Parigi è atterrato il nostro Sergio Nava. Ciao Sergio. Ciao Roberta. Quindi ti sarei accorto, sì, immagino, dal tuo arrivo in aeroporto, di qual è la situazione, la tensione, le misure di sicurezza? Diciamo che in una giornata diversa me ne sono accorto fin dall'aereo, anche perché è stato un episodio abbastanza anche tenero, se vogliamo, quello del capitano che, salutando i passeggeri, si è nominato Charlie, ha detto buona giornata a Charlie, oggi i nostri assistenti volo si chiamano tutti Charlie. È stato un gesto molto toccante, quello del capitano del volo che mi ha portato qui, ma forse anche dalla sensazione, essendo poi l'equipaggio in buona parte francese, di quanto ogni francese in qualsiasi categoria professionale si sia sentito toccato profondamente da quello che è successo ieri. qui a Parigi. A livello di misure di sicurezza devo dire le ho notate non solo davanti all'aeroporto dove ho visto una camionetta dell'esercito, anche macchine della polizia, ma soprattutto sulle grandi arterie che portano a Parigi, portano verso l'Arco di Trionfo, dove ho contato almeno 3 o 4 cortei di macchine della polizia con il lampeggiante acceso che sfrecciavano a tutta velocità, quindi c'è un stato, se vogliamo, di assedio, lo si sente, non lo si sente dovunque, soprattutto, lo si sente soprattutto intorno a Parigi e lo si sente anche nella sud di Parigi dove c'è stata una sparatoria, ricordiamolo, questa mattina in cui ha perso la vita un agente di polizia, sparatoria misteriosa, non è stata ufficialmente legata all'episodio di ieri, però è abbastanza singolare, se vogliamo, che una persona armata e con un giubbetto antiproiettile si aggirasse a sud di Parigi vicino a Montrouge questa mattina, quindi sicuramente la città non si è ancora scrollata di dosso quello che è successo ieri, gravissimi fatti di ieri, non si scrollerà sicuramente fino a domenica, giorno della marcia repubblicana, e fino a quando i due responsabili non saranno assicurati alla giustizia. Sergio, tu avrai viaggiato in taxi forse verso le tue destinazioni lì a Parigi? No, in autobus. In autobus. E hai avuto modo di sentire che cosa diceva la gente, se c'erano commenti particolari? Ma diciamo, guarda, erano soprattutto turisti ancora, stranieri. Quello, la conversazione che ho captato erano quelle del conducente che appunto con un collega commentava che oggi c'è la polizia dappertutto e a un turista che gli chiedeva perché non passasse una linea appunto degli autobus che portano, collegano Charles de Gaulle con Montparnasse in questo caso, gli ha detto a sud di Parigi c'è il caos poiché c'è l'allerta, qui viene chiamata Vigipirata, e l'allerta massima anti terrorismo, ci sono zone di Parigi, in particolare quella sud che è stata teatro della sparatoria stamattina, che sono completamente molto caotiche, almeno soprattutto stasera, oltre al traffico abituale, comunque questa è una grande metropoli e quindi chiaramente c'è già un traffico particolare, però ecco, sicuramente non sono giorni normali. Grazie Sergio Nava. Grazie Sergio. Grazie a voi. Lavorerai molto da Parigi in questi giorni. Intanto c'è un messaggio di Pietro al 349-238-6666 che dice: Grillo potrebbe tornare a occuparsi di scie chimiche, almeno continuerebbe a essere un simpatico comico. Con la storia della manina è solamente un giullare per sciocche farse dietrologiche complottiste. Perché sapete che oggi Grillo, ma anche Giannulli sul suo blog, ha detto: sì, dovrebbe essere la pista islamica quella più accreditata, l'integralismo islamico, ma forse c'è qualcos'altro, c'è una manina particolare. Alberto Negri. Ciao Alberto. Buonasera a tutti voi. Inviato speciale del Sole 24 Ore. Secondo te c'è qualche manina o effettivamente potrebbe essere effettivamente la matrice del terrorismo islamico integralista la più accreditata? Ma io penso che la prima ipotesi sia quella più accreditata. Qui piuttosto che parlare di manine bisogna parlare in realtà di buchi nella sicurezza della Francia, perché questi due personaggi erano ben noti dal 2005, addirittura erano stati Sharif, il fratello minore di Said, Kouachi era stato intervistato dalla televisione francese, aveva espresso il desiderio di voler in qualche modo unirsi ai combattenti in Iraq, poi nel 2008 era stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta su una rete che reclutava appunto jihadisti che volevano andare in Siria e poi in Iraq. Beh, insomma, ce n'era abbastanza per tenerli d'occhio questi due, no? Direi di sì, Alberto. Tra l'altro, effettivamente adesso si sente parlare ultimamente di questi foreign fighters di cui ha parlato anche Alfano, no? Ministro dell'Interno italiano, che ha detto dei 53 combattenti censiti nel nostro paese che hanno avuto a che fare a vario titolo con l'Italia, alcuni sono detenuti, alcuni sono perse le tracce perché magari si sono recati nei teatri di guerra a combattere, qualcuno è morto, di qualcuno non posso dire per ragioni di ovvia riservatezza istituzionale che fine, dove sono, che fine hanno fatto, insomma, vabbè, lascia così nel dubbio, però è una questione della quale probabilmente i servizi segreti sono informati da tanto tempo, no? Non credo che sia una scoperta degli ultimi anni, degli ultimi tempi. I servizi segreti, il pubblico direi, perché insomma signori, questi sono articoli che abbiamo fatto nel 2011, cioè io mi sono recato più volte in Siria, più volte al confine turco-siriano, ho intervistato gente che andava a combattere lì, l'ho persino qualcuno anche fotografato che passava il confine tra la Turchia e la Siria, e già si capiva benissimo allora che si stava creando un conflitto di tipo afghano che avrebbe provocato tutti gli effetti di quello che ha provocato l'Afghanistan, cioè il ritorno dei reduci da questo conflitto e probabilmente la loro costituzione di colonne jihadiste anche in Europa. Si parlava già allora di 2-3 mila jihadisti europei con in tasca un passaporto europeo che andavano dall'altra parte, quelli francesi sono 700-800 almeno, si sa anche il nome e il numero dei morti, decine, dozzine, insomma non siamo di fronte a un fenomeno sconosciuto o imprevedibile. Quindi fatti risaputi che evidentemente però i capi di governo, di Stato, i servizi segreti, chi si doveva occupare della gestione di questi movimenti che si stavano organizzando non hanno saputo intervenire nel modo giusto. Tra l'altro, ha colto la palla al balzo la NSA, la National Security Agency, no? Quella americana che era stata finita un po' nella bufera un anno fa con le rivelazioni di Snowden, ci ricordiamo tutti la talpa Snowden, ha colto questa occasione per dire: vedete che i nostri metodi servono, e i repubblicani hanno sottolineato contro Obama il fatto che effettivamente i servizi segreti non possono avere un guinzaglio troppo corto quando si tratta di combattere, di contrastare il terrorismo. Sì, anche se poi qui il ragionamento, se vogliamo farlo più approfondito, va bene al di là del problema soltanto della sicurezza. Qui c'è, insomma, siamo prima di tutto di fronte a un conflitto che dunque dura da molto tempo, cominciato in Iraq con la caduta del regime di Saddam Hussein, e l'Iraq diventò da allora una calamita di tutti i gruppi jihadisti internazionali. Bell'affare fu quello, no? Beh certo, quello fu un errore clamoroso di cui si scontrano gli effetti ancora più devastanti della guerra del Vietnam, e lo vediamo oggi. Poi è arrivata la Siria, e qui che si sconta anche un po' la questione, qui che bisognerebbe anche sollevare il velo dell'ipocrisia su tutta questa vicenda. In poche parole, qui l'Occidente si è alleato con paesi arabi e musulmani che puntavano alla caduta di Bashar Assad, la Turchia ha fatto passare decine di migliaia di jihadisti, si parla di 20-30 mila dai suoi confini, il Qatar sostiene Jabhat al-Nusra, l'Arabia Saudita, il fronte islamico, tutti i gruppi integralisti. La Turchia stessa abbiamo visto, no? Qual è il comportamento. Per la Turchia i curdi laici assediati a Kobane sono una minaccia assai più rilevante dello Stato islamico, e l'Occidente è andato dietro a questa vicenda, l'ha assecondata e assecondandola ha anche fatto in modo che ha chiuso un occhio, comunque in qualche modo ha lasciato che questi andassero a combattere da quelle parti. Quindi insomma bisogna anche chiarirsi che cosa si sta facendo lì, dove peraltro c'è una coalizione internazionale che dovrebbe combattere il califfato, ma con alleati assai poco convinti e molto ambigui. Alberto, questa è davvero la questione che tu poni dell'autolesionismo, diciamo, delle mani in pasta un po' anche da parte di tutto l'Occidente, che adesso fa un po' l'anima candida, no? Quindi un problema che si è autocreato. È un problema che si è autocreato con decisioni devastanti, con delle guerre sbagliate, e poi anche che si è autocreato assecondando per esempio le monarchie del Golfo, che hanno sempre avuto interessi a sostenere i gruppi più fondamentalisti e integralisti per tenere lontani da casa loro, e noi europei abbiamo assecondato questi paesi che tollerano, appoggiano, finanziano questi gruppi perché sono nostri clienti, perché sono dei partner finanziari. E allora nessuno si è lamentato quando è crollato il prezzo del petrolio qui, ma questa è stata una mossa saudita per mettere con la spalla al muro Mosca e l'Iran, che sono sul fronte opposto. Ecco, insomma, questo è il velo dell'ipocrisia che bisogna togliere, e poi bisognerebbe togliere anche un secondo nei rapporti con l'Islam. Grazie Alberto Negri di questa analisi così lucida. Alberto, grazie. Grazie a voi. Ciao Alberto. E un'analisi la fa anche la scrittrice italo-somala di religione musulmana Hijaba Shego, alla notizia appunto dell'attentato ieri a Charlie Hebdo, che dice: sono nazisti questi terroristi, non è l'Islam. Come molti altri islamici, ha aderito anche lei alla campagna contro il terrorismo sui social network. Oltre all'hashtag Je suis Charlie, cioè io sono Charlie, sta diventando virale anche quello Not in my name, non nel mio nome, con ragazzi e ragazze musulmani che postano le loro foto con il cartello in mano. Hijaba Shego ricorda anche che uno dei poliziotti uccisi nell'attacco di ieri, Ahmed, era arabo e musulmano, e l'ha intervistata Valentina Furlanetto. Sentiamo. No, non ci sto assolutamente, perché io non sono un terrorista, io non sono un criminale, io non uccido la gente. L'Islam è Islam, è la religione. Poi c'è gente, come appunto i criminali, i terroristi, i nazisti, che hanno assalito militarmente, decimato militarmente la redazione di Charlie Hebdo, che non hanno niente a che fare con la religione, cioè usano la religione piegandole ai loro scopi, che sono sempre scopi di denaro, di potere. Ad ogni attentato veniamo additati come i cattivi della situazione, quando non siamo noi il problema, non è l'islamico o la musulmana che porta i bambini a scuola all'asilo. Il problema è una situazione geopolitica contorta che si sta creando in Medio Oriente e non solo, in Libia. Io quando ho visto le vignette fatte da Charlie Hebdo, ma tantissimi anni fa ormai, ma anche quelle danesi, le ho guardate e ho fatto, vabbè, posso pure urtare la mia sensibilità, ma le guardo e dico, vabbè, mi faccio una risata sopra. La libertà di espressione è per me, come per tantissimi musulmani, un diritto inalienabile. E quindi quello che è successo a Charlie Hebdo è una dichiarazione di guerra in primis a noi musulmani, perché stanno usando quello che è di più sacro che abbiamo, cioè la nostra religione, per giustificare una mattanza, una macellazione di esseri umani, e questo io non lo tollero. Come se non bastasse, vi dicevo, dopo questo attentato che ha colpito Parigi, ma tutta Europa, e anche insomma ha suscitato indignazione internazionale, e in altri paesi che magari sono un po' meno sotto i riflettori, sotto l'attenzione del mondo occidentale, sto parlando in questo caso della Nigeria, c'è stata una nuova strage dell'organizzazione integralista Boko Haram, e si temono addirittura, vi dicevo, 2000 morti. I miliziani sono ritornati di Boko Haram a lanciare un secondo attacco contro la città di Baka, nel nord-est della Nigeria, già devastata domenica. Su questo coinvolgo Roberto Bongiorni, inviato del Sole 24 Ore. Ciao Roberto. Buonasera a tutti. Che Boko Haram ben conosce, si è occupato tante volte, lo stessa organizzazione integralista, Roberto, che ha rapito mesi fa, l'anno scorso, ad aprile, adesso non ricordo esattamente il mese, mi pare ad aprile, circa 200 studentesse o più di 200 studentesse, avevano l'unica colpa di voler studiare, essendo donne, no? Sì, esattamente, le avevano rapite 276 studentesse mai nello stato di nord orientale, nella città di Maiduguri. Sì, era stato un rapimento eclatante che però è stato seguito da altri rapimenti. L'ultimo, non dimentichiamo, perché queste notizie, come dicevi giustamente tu, vengono un po' trascurate dai media internazionali, perché succede in Nigeria, è venuto il 3 gennaio, 40 giovani sono stati rapiti in uno sperduto villaggio del nord-est, sempre della Nigeria, dove agisce Boko Haram, e sono ragazzi dai 15 ai 23 anni, di cui si ignora ancora la fine, si possono essere arruolati, venduti come schiavi, non si sa ancora. E una lunghissima serie di attentati contro la popolazione civile che si ripetono con cadenza quotidiana, per quanto non vengano ripresi poi dai media occidentali. Roberto, scusa, ma il loro obiettivo qual è? Adesso, se davvero ci sono 2000 morti in questo villaggio, perché queste stragi di massa, di popolazione poi inerme? Qual è il loro obiettivo? A chi sono affiliati? Sì, torniamo a una piccola brevissima digressione. Boko Haram, che significa nel linguaggio Hausa, dialetto locale, l'istruzione occidentale vietata, da cui si deduce la natura oltranzista del gruppo, è un gruppo che è nato nel 2002 a Maiduguri, che era fondato da questo carismatico sceicco Ustad Mohammed Yusuf, che negava persino, talmente oltranzista che la terra, che la concezione dei pianeti, la terra doveva essere piatta, voleva imporre una visione molto medievale. Ecco, già da allora Boko Haram aveva un obiettivo: l'instaurazione di un califfato islamico spietato, come quello del califfo Abu Bakr a Baghdadi, in tutti i 36 stati della Nigeria, che ricordo è il paese più popoloso dell'Africa con 160 milioni di abitanti, la prima economia dell'Africa. Però sì, un paese dilaniato dalla, dalla violenza e comunque diviso in due tra cristiani e musulmani storicamente. Boko Haram poi si fa sempre più audace ed è nel 2009 che comincia questa guerriglia nel nord-est, prende forza. Nel 2010 ricorre all'arma per eccellenza usata dal network jihadista globale, con allora Al-Qaeda, di Osama Bin Laden, con cui proclama alleanza, e usa i kamikaze. E inizia con una lunga serie di kamikaze, poi centinaia di raid contro la popolazione civile, perché il loro obiettivo comunque è di terrorizzare e di mostrare quanto il governo nigeriano, che ora è in mano a un presidente cristiano, Jonathan Goodluck, sia instabile, quanto loro siano forti, e ci stanno riuscendo, perché la Nigeria comunque è un paese tutto sommato potenzialmente ricco ma anche molto povero, e per cui è anche vasto, e quindi loro riescono ad agire con una guerriglia simmetrica. Ricordo infine che Boko Haram è così forte perché ci sono anche dei poteri forti, più volte è stato accusato di aver insediato dei suoi uomini nelle strutture di potere del governo nigeriano, che ripeto è il governo di un paese comunque che resta estremamente corrotto. Quindi c'è anche questa ambiguità, dice, uno può chiedersi, Roberto Buongiorno, come mai il governo non riesce a battere, a contrastare l'organizzazione integralista? Tu dici è possibile che abbia anche infiltrato tra chi governa dei propri uomini. Naturalmente il governo respinge le accuse, e queste accuse vengono fatte da chi critica il governo, però non è da escludere che comunque Boko Haram, considerando i successi militari contro l'esercito nigeriano, che non è un esercito comunque degli ultimi, non è un esercito del Burundi, qualche sospetto si può muovere, perché è un gruppo comunque forte e comunque spietato. È anche curioso peraltro che è stato uno dei primi gruppi lo scorso luglio ad avere dichiarato l'alleanza al califfato islamico dello sceicco Abu Bakr al Baghdadi, e ha fondato, anche se non se ne parla, un califfato. Ebbene sì, c'è un altro califfato islamico, oltre a quello a cavallo tra la Siria e l'Iraq, che è in una città nord-orientale della Nigeria, e anche qui vengono, per quanto il territorio sia molto più piccolo, vengono applicate delle leggi altrettanto spietate nei confronti della popolazione civile. Boko Haram, sulla falsa riga dell'ISIS, comunque procede con le decapitazioni nei confronti dei reati più gravi, quelli che loro sono, ai loro occhi sono considerati reati più gravi. Grazie Roberto Buongiorno. Grazie a voi. Ciao Roberto. Torniamo invece sulle questioni italiane, sull'autopsia che c'è stata oggi sul corpo di Pino Daniele. È morto per insufficienza cardiaca, questo è stato appurato, non ha rivelato particolari sorprese questo esame autoptico, l'hanno detto anche i periti nominati dall'ex seconda moglie Fabiola Sciabarasi, che però intendono andare avanti con altri esami, perché dicono non ci sono risposte definitive, vogliamo capire se effettivamente poteva essere salvato, se il malessere poteva essere soccorso meglio o no, e questo, dice, questo si accerterà meglio alla luce di altre risultanze. C'è per noi a Napoli Carmelo Presti Simone. Ciao Carmelo. Ciao Roberta, buonasera. Molti si chiedono effettivamente era necessaria un'autopsia, quando alla fine si è capito che insomma era chiaro che è morto di cuore, ha tutta una famiglia di fratelli che sono cardiopatici, loro stessi l'hanno detto, c'era la nipote Loredana che diceva insomma ci sembra un ulteriore colpo questo della necessità di un'autopsia. Vabbè, stiamo a vedere un po' quali saranno i risultati, che tra l'altro definitivi dovrebbero essere tra una sessantina di giorni, se non sbaglio, Carmelo. Esattamente, nel giro di 60 giorni diciamo così, i magistrati avranno la possibilità, il tempo, la deadline per capire e per acquisire materiale sufficiente per chiarire meglio qual è la vicenda. La situazione, hai detto bene tu Roberta, è interlocutoria sotto tutti i punti di vista. C'è stata alle 12 l'autopsia sul corpo di Pino Daniele all'Istituto di Medicina Legale al Policlinico di Napoli, esame che non ha rivelato sorprese, come era prevedibile, d'altronde il cantautore aveva una cardiopatia importante, era stato operato già al cuore come altri membri della sua famiglia, un compenso funzionale precario. La questione è se nel momento critico del malessere il soccorso poteva essere gestito meglio, Pino Daniele poteva essere aiutato oppure no, insomma. E ricordiamo che c'è un'inchiesta, no? Esatto, nei confronti di ignoti. Omicidio colposo, aperta dalla procura di Roma, all'autopsia oggi c'erano anche i consulenti della seconda moglie di Daniele, Fabiola Sciabarasi, mentre domenica sera con Daniele in Toscana c'era l'attuale compagna Amanda Bonini. Nel momento critico la Sciabarasi, poi dalla quale il cantautore si era separato non moltissimo tempo fa, ha avuto 3 figli, ha spronato nei giorni scorsi l'attuale compagna a dire tutto quello che sa. Pino era svenuto, non avrebbe potuto decidere lui di andare a Roma, ha detto la moglie, era lucido, invece ha detto lui di metterci in auto, ha replicato la compagna. Situazione difficile, delicata sotto molti punti di vista, e come se non bastasse, Roberta, oggi nella sua casa ad Orbetello, dove poi l'artista è finito, la compagna, l'attuale compagna Amanda Bonini, è tornata con 2 dei suoi figli e ha denunciato anche un furto. C'è stato un furto, soldi e 2 chitarre rubate. Gli spregevoli sciacalli, immaginiamo, che avranno sentito della notizia di quello che è successo, avranno pensato alla casa lì isolata, non c'è nessuno a presidiarla, e quindi sì, ne hanno approfittato. Grazie Carmelo Presti Simone. Ciao. Grazie Carmelo. Ciao, buona serata. E leggo Gianfranco sulla pagina Facebook di Effetto Notte che dice: il clamore dell'inchiesta ha creato le varie polemiche, ma mi raccontano che in Germania viene fatta un'autopsia, un controllo sanitario legale ogni qualvolta una persona non muoia in ospedale. Così spiega Gianfranco. Europa 24 Notte. Torniamo sui fatti di Parigi. Lo sdegno, l'orrore, il dolore per la strage di ieri ha fatto il giro del mondo. Tanti leader, capi di Stato e di Governo hanno espresso la loro solidarietà alla Francia, e non poteva certamente mancare la vicinanza espressa dalle istituzioni europee. Oggi il Presidente della Commissione europea, Juncker, ha detto: oggi è un giorno di lutto per tutta l'Europa, siamo costernati, scioccati dall'attentato di Parigi, che è un attacco diretto alla nostra vita, al nostro modo di vivere. C'è Beda Romano per noi, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Ciao Beda. Buonasera. Il Parlamento oggi ha reso omaggio, il Parlamento europeo, alla Francia, alle vittime francesi, con un minuto di silenzio, no? Sì, assolutamente. Non solo il Parlamento, ma anche la Commissione e il Consiglio lo hanno fatto, con un minuto di silenzio e tenendo le bandiere a mezz'asta, seguendo l'esempio peraltro della Francia. Oggi il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, era a Riga, dove ha inaugurato il semestre di presidenza europeo della Lettonia, e ha fatto in questa circostanza un annuncio, ha spiegato che l'obiettivo a questo punto della Commissione è di presentare nelle prossime settimane o nei prossimi mesi nuove proposte per cercare di migliorare il rafforzamento del coordinamento tra gli Stati membri in campo della sicurezza. La sicurezza è una di quelle competenze che nell'Unione Europea rimane prevalentemente nazionale, e si ha l'impressione a questo punto che sulla scia dell'attentato di ieri a Parigi ci possa essere da parte dei 28 un rafforzamento del coordinamento in questo settore. Non sarà facile, ma ho l'impressione che la Commissione voglia puntare in questa direzione. E infatti, Beda, da più parti, da più parlamentari italiani, anche da Renzi, se non sbaglio, è arrivato l'appello nei confronti dell'Unione Europea perché prenda misure più incisive, più coordinate a livello europeo contro il rischio terrorismo, contro il rischio anche dei foreign fighters di cui abbiamo parlato, i miliziani jihadisti, no Beda? Ma quindi di qualche misura si è parlato concretamente? Ma no, concretamente non si è ancora parlato. Ci sono 2 riunioni già previste peraltro da tempo, una dei ministri degli esteri fra una decina di giorni a Bruxelles e un'altra dei ministri degli interni alla fine del mese qui a Riga, da dove sto parlando. Sono 2 riunioni dove i ministri sia degli esteri che degli interni discuteranno di questo aspetto. Posso immaginare che uno degli aspetti aspetti che verranno discussi è certamente quest'idea di creare una banca dati dei passeggeri aerei. È una vecchia proposta della Commissione che però è bloccata dal Parlamento europeo perché il Parlamento la considera troppo invasiva. Questo potrebbe essere certamente un aspetto su cui fare progressi, altri aspetti potrebbero riguardare per esempio il coordinamento tra Europol e le varie autorità nazionali. Anche lì i rapporti ci sono, ma sono rapporti che non sono particolarmente estesi e quindi posso immaginare che la Commissione cercherà anche in questo frangente di creare un miglior coordinamento. Grazie Beda. A presto. Ciao, Beda Romano. Ciao. Europa 24 Notte, in collaborazione con Euronet Plus. Adesso alleggeriamoci un po' con una storia di cinema e chiesa, cinema e Vaticano, perché oggi proprio in Vaticano è stata proiettata l'anteprima del film di Angelina Jolie, famosa, bella attrice e anche regista, proprio in veste di attrice ha realizzato Unbroken, questo film che racconta la storia di un atleta eroe di guerra della Seconda Guerra Mondiale, realmente vissuto e che da ragazzo era uno scapigliato, insomma, poi si ricorda degli insegnamenti di questo prete che lui comunque seguiva, che faceva parte della sua comunità, della sua parrocchia, e investe tutte le sue energie, la sua rabbia nell'atletica, diventa anche un campione olimpionico, poi scoppia la Seconda Guerra Mondiale, vive mille vicissitudini, viene catturato dai giapponesi, viene torturato, resiste a tutto ricordandosi queste parole del prete. Sentiamoci proprio un pezzettino del trailer. Per quanto buia sia la notte, per quanto deboli le speranze... In basso a ore 4! Alle tenebre seguirà sempre la luce. Continua a comportarti così e finirai come un vagabondo. Ma se ti alleni, se ti impegni più degli altri, vincerai. E così è stato. Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore. Ciao Carlo. Ciao, buonasera a voi. È stato un evento particolare, no? Che immaginava che un giorno Angelina Jolie, che fa parte di tutt'altro mondo rispetto al Vaticano, al Papa, fosse lì ad assistere, a incontrare il Papa e ad assistere alla proiezione del suo film Unbroken, di cui abbiamo sentito proprio allora, così. Il Papa non ha assistito alla proiezione perché c'è stato il Papa in quel momento stava incontrando addirittura il Vescovo di Parigi. Si sono incontrati quindi, dopo, sì, diciamo che aveva priorità. Ecco, sì, diciamo che non ha partecipato alla proiezione, che è avvenuta però dentro il Vaticano, come giustamente dicevi, la Casina Pio IV, che è l'Accademia delle Scienze, che è appunto un luogo dove avvengono anche queste contaminazioni di altro tipo, diciamo, dentro il Vaticano, ma è un luogo bellissimo, tra l'altro dentro i giardini. Poi ha incontrato il Papa ha detto che si è scusato, ma in quei momenti stava appunto incontrando il Cardinale Van Troa. E diciamo che appunto c'è una storia, come dicevi giustamente, di questo Italia figlio di italiani, cresciuto in California, che è stato appunto un campione e a cui addirittura Hitler strinse la mano nelle Olimpiadi del 36, quelle famose dove Jesse Owens vinse il nero, l'America vinse le medaglie d'oro. E tuttavia lui, diciamo così, ha vissuto una vita appunto molto particolare, scapigliata, molto, molto dura, è stato, come dire, una minoranza in italiano vessato dagli americani e allo stesso tempo però è stato torturato dai giapponesi. E c'è un fatto bellissimo che lui era già un personaggio famoso, andò in Giappone, cercò colui il quale il giapponese l'aveva torturato per 2 anni in questo campo di prigionia, però questo giapponese non lo volle incontrare perché questo giapponese disse, insomma, ribadiva che aveva fatto bene a torturare un prigioniero e tuttavia lui che aveva preso questo percorso di fede, di perdono, diventato anche un simbolo, non solo cattolico, per la verità lui aveva frequentato anche chiese evangeliche americane, quindi diciamo era trasversale la sua fede e quindi questo film il Papa ha voluto riconoscere un'importanza proprio ad Angelina Jolie, che come sappiamo bene non è solo l'attrice, non è solo la moglie di Brad Pitt, è comunque un personaggio appunto assurdo a livello mondiale, ha adottato dei bambini, ha fatto anche questo gesto forte, come ricordiamo, dell'asportazione dei seni per prevenire un tumore, cioè è un personaggio di rottura e questo secondo me assomiglia molto al Papa in qualche modo. Cioè Bergoglio in questo ama molto incontrare personaggi di questo tipo, c'è da dire che forse Ratzinger non so se l'avrebbe incontrata, ecco, Angelina Jolie, francamente. No, ricordandoci di Ratzinger, direi proprio di no. Secondo te è soltanto esclusivamente per il contenuto legato anche appunto ai precetti di un prete che forse ha salvato con i suoi insegnamenti questo ragazzo avviato all'inizio sulla cattiva strada che il Papa ha deciso di accogliere Angelina Jolie e il suo film lì in Vaticano, oppure anche proprio fa sempre parte, rientra nella sua linea così di rinnovamento, di avvicinamento anche alla società civile, anche a quella più, diciamo, se usiamo questo termine, glamour, ecco, per contenere tutto. La seconda parte un po' meno, perché per esempio Wojtyla era uno che incontrava gli attori, per esempio, no? Non era a lui stesso, come ci ricordiamo, Wojtyla aveva scritto testi teatrali. Sì, quindi non è un attore teatrale, brevemente. È che appunto lui stesso, insomma, poi l'ufficio delle rappresentazioni della sua, diciamo, opera teatrale giovanile, quella di Wojtyla. Diciamo, secondo me invece è proprio il tema del film, e cioè il perdono. Che è la fase forte, cioè nel senso un perdono trasversale che attraversa le religioni e le nazioni, e un personaggio positivo, straordinariamente positivo e per la verità molto poco conosciuto in Italia fino a, probabilmente dopo il film lo sarà molto di più, e quindi in questo senso poi gli sarà stato presentato, il Papa probabilmente avrà conosciuto la storia, e l'idea di incontrare Angelina Jolie, che comunque è un personaggio che in questi ultimi anni appunto è andata a tracciare un mondo, quello per esempio appunto dei personaggi famosi che vanno nel cuore dell'Africa non solo per farsi pubblicità come fanno molti attori, ma probabilmente va molto più nel concreto, ha portato due figli in prima persona, ha portato due figli con sé, insomma non è stata, secondo me, da quello che si capisce, solo un evento mediatico, e questo Bergoglio, diciamo, ha molto fiuto su queste cose, cioè capisce quando sono false, quando sono vere, e su questa volta ha pensato e creduto che fosse una cosa che fosse giusto. Grazie Carlo Marroni. Grazie a te, grazie a voi a tutti. Ciao Carlo, vi ricordo che poi questo film sarà fine gennaio anche in Italia.